Questa puntata di Festival Passport è dedicata a un evento che è in un qualche modo diffuso. Perché diciamo che è diffuso, Mauro? Perché è, diciamo, spalmato sia a livello geografico sia a livello temporale su, diciamo, un'area abbastanza grande. Beh, è spalmato su due province, la provincia di su due realtà, Bergamo e Brescia, che si uniscono per la Summer Revolution. Si uniscono per la Summer Revolution, tra l'altro che gioca molto, se guardi il logo, sull'amore, Summer Revolution, ma scritto con love, girato. Un con po'... Cupido che punta una freccia sui locali che si occupano dell'organizzazione di questi eventi. Sì, insomma, è molto, è molto pieno love. Di significato, molto love. Pieno di significato, ma dicevamo su due zone, perché la provincia di Bergamo e Brescia, diciamo, è presente all'interno di Summer Revolution con tre realtà particolarmente importanti per il panorama musicale e per gli eventi dal vivo, che sono lo Spazio Polaresco, che è in via del Polaresco 16 a Bergamo, la Batteria Molloy, che è via Marziale Ducos 2B di Brescia, e il Piazzale degli Alpini di Bergamo, soprannominato per questo evento, credo, Bergamo 1000. Quindi insomma, diciamo, tre realtà particolarmente importanti che si uniscono per un percorso di rinascita e ripartenza culturale, ce lo dicono, ce lo spiegano così. Tra l'altro, Bergamo e Brescia nel 2023 saranno capitali della cultura, insieme si fondono come capitali della cultura, quindi ci saranno una serie di eventi e iniziano un po' a far vedere un po' chi sono, no? Noi siamo... Cioè, quelli che fanno gli eventi. Beh, la VET, vabbè, la VET non si dice, no. Da voi, come si dice? Pota. Quindi, questo, diciamo, pannello di eventi si sviluppa dal 18 giugno, quindi è già iniziato, ma andrà avanti fino al 19 settembre, con 120 eventi per tutta l'estate. Diciamo eventi perché non si tratta solo di concerti live, ma si tratta anche di eventi un po' più particolari, come ad esempio quello che abbiamo deciso di raccontarvi in un qualche modo oggi. Infatti abbiamo scelto di intervistare un artista che si esibirà, ma non a livello musicale. Sì, non è che si esibisce, in realtà lui prende parte un po' come mattatore e animatore della serata all'evento che ci sarà questa sera, mercoledì 7 luglio, allo Spazio Polaresco di Bergamo. Questo evento non è solo con questo artista, che adesso vi svegliamo chi è Auroro Borealo, ma è con Auroro Borealo che presenta sul palco il libro di un'altra artista che però è più conosciuta come musicista. Cioè, in realtà è conosciuta come icona in un qualche modo, riscoperta quest'anno grazie a Il tormentone estivo. Il tormentone, insomma, avete capito, stiamo parlando di Orietta Berti. Ecco, Orietta Berti ha scritto un libro in cui racconta un pochino la sua esperienza, la sua vita, che si chiama Tra bandiere rosse e acquasantiere, e lo presenta proprio con Auroro Borealo. Ecco, noi non sappiamo se voi avete presente il tipo. Auroro Borealo è un artista, come si definisce, Mauro? È stravagante, come minimo. Lui fa della musica, ma non solo, perché lui è un artista performativo più che altro, e fa del pop stravagante stonato fatto male ma molto bello. Ok. Sì, credo di avere capito. Quindi Auroro Borealo, che è questo personaggio molto particolare, medierà Orietta Berti, che anche secondo me non, diciamo, in quanto a particolarità non è stravagante anche lei. Sì, non lascia passare niente, quindi l'ingresso è gratuito, però abbiamo una brutta notizia. Ecco, noi questa intervista ve la vogliamo far sentire perché Auroro ci piace molto, però purtroppo è andato sold out in 12 ore. Questo vi fa un po' capire, insomma, la rilevanza che poteva avere questo evento e anche la voglia di uscire, di andare a sentire, diciamo, artisti o comunque partecipare a eventi che ci può essere nello spazio di Bergamo e Brescia, ma non solo. Comunque il panorama musicale, quindi tutti gli eventi che dal 18 giugno fino al 19 settembre prenderanno vita tra Bergamo e Brescia, intanto li trovate sul sito summerrevolution.it. E sono veramente tantissimi eventi. Ad esempio, il festival Albori quest'anno si chiama Albori va in città e si unisce al cartellone di eventi di Summer Revolution. Albori famoso perché è una bellissima realtà che porta artisti anche anche non sempre conosciutissimi, diciamo sul palco, no? Unisce degli artisti abbastanza conosciuti ad altri un pochino più sconosciuti. Quest'anno appunto smette lo zainetto e spalla e va in città. Per farvi un esempio di quello che si potrà trovare, diciamo, all'interno del pannellone di Summer Revolution, troviamo i Caracalma, che sono al Polisco il 24 luglio, a ingresso gratuito la Municipale, ma anche Giorgio Canali e Rosso Fuoco. Questa volta invece non è ingresso gratuito, infatti alcuni eventi saranno a pagamento. Ci sarà Venerus, oppure Legno, i Modena City Ramblers, sempre in questo caso allo Spazio Polaresco, ma la Latteria Molloy ad esempio c'è Bianco, o Oretta Berti appunto, che presenta il suo libro, o ancora gli Psicologi, che si esibiranno a Bergamo Mille. Ci sarà lo Stato Sociale, ci sarà Guido Catalano, insomma, diciamo veramente tanti eventi e di tante tipologie diverse. Quindi vi invitiamo a scoprirli e scegliere quelli che vi piacciono di più, ma vi ricordiamo che alcuni sono a ingresso gratuito, altri a pagamento, ma essendo spazi contingentati, come sempre, vi consigliamo di muovervi per tempo, per non rimanere, come nel caso dell'evento di stasera, insomma, senza biglietto e senza possibilità di entrare. Ora che vi abbiamo fatto un piccolo riassunto di quello che succede tra Bergamo e Brescia quest'estate, con questo miliardo di milioni di eventi, vi lasciamo a un pezzo di Oriettona Nazionale, L'Oriettona, e all'intervista che abbiamo fatto a Aurora Borealo. Quando tu mi venivi a cercare, ti aprivo la porta, mi dicevi: se tu sei contenta ti porto in città. Ogni volta ti ho detto di sì e venivo a ballare con te. Mi ricordo che allora l'orchestra suonava così. Dimmi, dimmi, dimmi, di dove vai? Dimmi, dimmi, dimmi, di cosa fai? Dimmi, dimmi, dimmi, di come mai? E c'era l'uomo dell'organino che ci dava un biglietto blu. C'era scritto: ti vuole bene, ma non era la verità. Dimmi, dimmi, dimmi, di dove vai? Dimmi, dimmi, dimmi, di con chi sei? Dimmi, dimmi, dimmi, di come vai? Lui questa sera non c'è. Come mai questa sera, maestro, tu sbagli le note? Con la gente che c'è, ma perché, ma perché guardi me? Oramai l'hai capito anche tu, che l'amore per me non c'è più, ma vorrei che l'orchestra suonasse per sempre così. Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dove vai? Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, come mai? Sei innamorata di lui. Ti vuole bene, ma non era la verità. Dimmi, dimmi, dimmi, di dove vai? Dimmi, dimmi, dimmi, di cosa fai? Dimmi, dimmi, dimmi, di come mai? Ti stai piangendo con me? Siamo al telefono con Aurora Borealo, che io farò molta fatica a pronunciare per tutta l'intervista, visto il mio problema con la lettera R, però intanto grazie mille, Aurora, di essere qui con noi. Grazie a te, grazie a voi, ciao. Allora, stasera, quindi mercoledì 7 luglio, sarai allo Spazio Polaresco di Bergamo per la Summer Revolution, che è un po' una serie di eventi che unisce Brescia e Bergamo. Ecco, da bresciano, non senti un po' la rivalità di andare a Bergamo, che c'è questa rivalità provinciale famosa? Guarda, per come la sto io, la rivalità tra Brescia e Bergamo è principalmente calcistica. A me del calcio in realtà non interessa veramente pochissimo. E anzi, racconto questo aneddoto velocemente. Quando vivevo a Brescia da ragazzino, avevo questa maglia della Sampdoria che mi piaceva tantissimo e che portavo. Allora, un ultra del Brescia mi diede uno schiaffo per questa maglietta e, a quanto mi risulta, nessun ultra dell'Atalanta mi ha mai dato uno schiaffo per la maglia della Sampdoria. Quindi, se devo scegliere qualcuno, scelgo comunque quelli dell'Atalanta, perché nessun ultra dell'Atalanta mi ha mai dato uno schiaffo, per dire. La maglia della Sampdoria a Brescia è bella strana, diciamo. Ne sapevo veramente poco di calcio, mi piaceva la maglia della Sampdoria per il colore, per la fantasia. Allora, parlando un po' invece di musica, stasera sarai sullo stesso palco insieme a un'icona della musica, tra l'altro, che sta vivendo una seconda giovinezza, diciamo, musicale. Come ti senti a stare in una serata insieme a Orietta Berti? Beh, sono felicissimo perché Orietta Berti è veramente un mito sotto tutti i punti di vista, sia quello musicale che quello umano, che quello caratteriale, ma sono ancora più felice per il fatto che potrò attingere e insieme al pubblico potremo attingere alla sua riserva infinita di aneddoti che compongono la sua vita incredibile. Perché questo libro che lei sta presentando, Tra bandiere rosse e acqua sentiere, è veramente pieno di chicche, di aneddoti, di storie pazzesche, che se uno non le leggesse o non le sentisse raccontate da lei, non ci crederebbe. Sono veramente molto felice di questo. Quindi come si svolgerà la serata? Sarete proprio sul palco insieme o saranno due spettacoli separati? Saremo sul palco insieme perché appunto la serata è la presentazione del suo libro Tra bandiere rosse e acqua sentiere, edito da Rizzoli. Io sarò semplicemente, diciamo, la persona che la intervisterà e che le chiederà un po' di raccontarci questo libro. Quindi non c'è musica, parleremo e basta, ma ci sono talmente tante cose da dire su questo libro che lei ha pubblicato che io sono stato orgoglioso che abbiano pensato di chiedere a me di intervistarle. Fantastico. Tu però stai portando anche in giro Borealissimo, che è un po' un concerto, un po' una stand-up comedy. Ecco, vuoi raccontarci un pochino anche di questa cosa, questo spettacolo che porti in giro? Sì, intanto grazie. Beh, parte della mia attività musicale è anche performance più che musica, anche perché appunto sono abbastanza nato. Quindi in quest'anno e mezzo di lockdown ho sentito un po' l'esigenza di raccontare una storia diversa della mia musica, che non fosse fatta solo di rock and roll o di contatto sudato con il pubblico, di stage diving, che è una cosa che a me piace molto fare. Quindi ho provato a immaginarmi come sarebbero gli spettacoli di Aurora Borealo se non si potesse fare stage diving, e quindi ho messo dentro tutto il mio mondo, che è un mondo fatto di musica diversamente bella, di canzoni di altri magari poco conosciute, di libri brutti, di sketch, di cose improvvisate, e anche ovviamente di canzoni e magari anche di momenti acustici, oltre che momenti insomma magari un pochino più sfacciati. Quindi è uno spettacolo con più sfaccettature, proprio perché non volevo fare la versione acustica degli spettacoli che facevo normalmente, insomma, anche se c'è stata una pandemia di mezzo, credo che sia giusto cercare sempre di migliorarsi e superarsi e non di adattarsi e basta. l'ossigeno risolve i mali, poi due pacchetti di nazionali. Alla tua età io saltavo ogni fosso, cacca addosso dove posso. Fantastico, peraltro appunto musica brutta l'hai definita, la definiamo anche un po', non so, un pop stravagante. Tu arrivi da esperienze più punk rock, diciamo, e come sei arrivato a questa sorta di, cioè qual è stato il percorso che ti ha portato poi da 2017 più o meno a creare questo personaggio e questo tipo di musica che fa Aurora Borealo, appunto? Guarda, è molto semplice. Prima suonavo con un gruppo che si chiamava Il Culo di Mario, che era, diciamo, era dall'approccio molto punk. In realtà poi era tutta un missione di cose registrate molto male, perché era quello che sapevamo fare. Però era esattamente la, come si dice in quei casi, era la musica che mi sarebbe sempre piaciuto ascoltare, ma che nessuno faceva, quindi dovevamo farcela da soli. Quel gruppo lì si è sciolto, eravamo in due e ognuno è andato per la propria strada. Io però sentivo veramente troppo forte l'esigenza di stare su un palco, di fare stage diving, di raccontare, di far stare bene me stesso e delle persone, e quindi ho preso il primo nome che mi è venuto in mente, il primo nome d'arte, e ho continuato con la mia musica, ovviamente cercando di fare quello che so fare io, che è appunto performance, intrattenimento e magari delle canzoni che siano di contorno, che siano un pretesto per poter poi fare questi spettacoli, questi concerti. Beh, questo Aurora Borealo, questo diciamo personaggio, sta portando anche molto bene, perché funziona. Hai fatto anche una canzone con Ruggero dei Timidi che ha avuto discreto successo, diciamo, comunque sta funzionando. Ecco, io volevo chiederti, oltre ai singoloni o ai singoli che stanno uscendo a spot, diciamo, hai qualche progetto, qualche album, qualcosa che stai portando avanti per il prossimo futuro? Sì, ho un disco che è tutto scritto, praticamente tutto scritto, e che stavo aspettando, insomma, mi sono preso del tempo per capire come far uscire, perché in qualche modo, essendo la mia dimensione molto live, diciamo, mi piacerebbe poter portare in giro nei live il disco che sto scrivendo e che comincerò a registrare, in un momento in cui il contatto con il pubblico può essere fisicamente più vicino. Quindi diciamo che mi immagino, se tutto va bene, incrociando le dita, e che insomma la situazione migliore, mi immagino di farlo uscire nei primi mesi del 2022, questo disco, insomma. Sperando che poi si possa fare stage diving. Sperando che si possa fare stage diving, ma a un certo punto, anche se non si potrà fare stage diving, lo farà uscire. Diciamo che comunque quest'anno e mezzo è stato molto difficile per tutti, quindi visto che tra l'altro non faccio di lavoro il cantante, anche per me poter avere la serenità di mettermi a lavorare a un disco senza nemmeno riuscire a immaginare di poterlo portare dal vivo come facevo prima, è stato difficile. niente, quindi adesso ho rimesso in ordine tutto e sto lavorando a questo disco nuovo, insomma. Fantastico, quindi aspettiamo con ansia l'uscita del prossimo album di Aurora Borealo. Tra l'altro abbiamo visto che tu hai un altro piccolo progettino che ci è piaciuto molto, cercando in mezzo alla pagina Facebook più che altro, di Nascostify. Cos'è Nascostify? Nascostify è una grande passione che accomuna me e Elisa Satriano, e si tratta semplicemente di un podcast che cerca di coronare tutta la musica nascosta che c'è nelle piattaforme di streaming digitali in Italia. Cioè, ci sono tanti artisti del presente e del passato italiani che hanno, noi abbiamo identificato meno di 1000 ascoltatori mensili come cifra simbolica, ma che comunque, diciamo, per vari motivi giacciono un po' nascosti all'interno delle piattaforme di streaming. Noi li ritiriamo fuori, raccontiamo la loro storia, e il pretesto appunto è quello di farli uscire dai 1000 ascoltatori, ma in realtà è semplicemente far scoprire tanta musica che magari col meccanismo degli algoritmi di oggi non arriverebbe alle orecchie di tante persone che invece magari potrebbero trovarlo interessante. Quindi di fatto noi raccontiamo storie di canzoni che secondo noi meritano di più, che siano degli anni 60, 70, 80, 90 o che siano appena uscite. Fantastico, noi approviamo molto, perché noi come trasmissione radio andiamo spesso a cercare gruppi di nicchia che non siano mainstream, che magari lanciano un album ma che non si caga nessuno, tra virgolette. Quindi ci è piaciuta molto questa idea di Nascostify, è molto molto molto interessante. Per chiudere, quindi, dicevamo, stasera, mercoledì 7 luglio, al Polaresco di Bergamo, tra Bandiere Rosse e Acque Santiere, Orietta Berti e Aurora Borealo. Come convinciamo il pubblico, che non è magari ancora sicuro, a venire all'evento? Insomma, invitiamo il pubblico all'evento. Mi dispiace, ma è sold out. È stato sold out dopo 12 ore in tutte e due le parti, quindi più diciamo che il pubblico era già ampiamente convinto, ecco. Beh, allora bene così. Sì, esatto, nel senso che anch'io, pensando a questa cosa, mi sono reso conto che in realtà il pubblico ama talmente tanto Orietta Berti, e ovviamente i posti non erano tantissimi, che veramente in 12 ore sono finiti sia i posti che anche le liste d'attesa. Segnale bellissimo, insomma, per, appunto, come dicevi, anche tra l'altro prima che uscisse il singolo con Fede Testi De Lauro, quindi comunque è un affetto che c'è da sempre, quello per Orietta Berti. Assolutamente sì. Allora speriamo in una replica futura magari di questo evento, o comunque di vederti a Borealissimo. Grazie mille. Per quanto riguarda adesso, che ovviamente dipenderà da come si troverà Orietta con me, con noi, e quindi insomma siamo pedine nel gioco della vita di Orietta, insomma. Fantastico, ok. Allora, io ti ringrazio infinitamente e a presto, e in bocca al lupo per la serata. Grazie a te, grazie a voi e buonasera.